Sì, non posso esimermi da raccogliere prima di passare il microfono, appunto. In questi giorni per noi è fondamentale ricordare quello che sta succedendo in Val di Susa e vorrei ricordare che appunto gli estremisti non sono le persone della valle e di tutta Italia che si stanno battendo contro quello scellerato progetto, ma gli estremisti sono quelli che lo vogliono. Non lo so, chi inizia? Io qua, noi non siamo abituati a tenere una scaletta e un ordine preciso, se qualcuno si fa avanti, se no io le prime facce che vedo degli agricoltori invitati gli do il microfono in mano. Vai Renata. Inizio io perché insieme alle persone che hanno deciso di sostenere Domenico Finiguerra nella sua campagna elettorale, ho deciso di fare un pezzettino di questo percorso. Per cui, quando abbiamo pensato a questo evento, ci siamo un po' resi conto che, e lo vedete anche dagli agricoltori che abbiamo invitato qui, che in questi anni sono nate delle esperienze virtuose un po' tutto intorno ad Abbiate Grasso. Infatti gli agricoltori che poi parleranno dopo sono agricoltori di comuni limitrofi, no? E questa è una cosa che ci ha fatto un po' pensare e quindi quando abbiamo dovuto immaginarci di invitare gli agricoltori di Abbiate Grasso ci siamo detti, visto che non avevamo neanche gli indirizzi mail, che dovevamo andarli a trovare, quindi ci siamo un po' divisi i compiti e io per esempio ho preso la mia bicicletta, in questi giorni quando avevo tempo sono andata un po' nelle cascine e a distribuire queste cartoline e per me è stata, pur conoscendo le vallate di Abbiate Grasso perché spesso le giro in bicicletta, è stata un po' una sorpresa, devo dire bella, parlando con le persone, soprattutto con tante donne ho parlato, vedere che in effetti mentre per esempio, non so, le aziende del Consorzio Agrituristico Terre d'Acqua, tante aziende che hanno aderito al distretto dell'economia solidale, sono aziende che si sono un po' vaccinate su questi temi di cui ha parlato Domenico, perché pesantemente condizionate da infrastrutture che dovevano nascere e comunque in zone urbanizzate. Gli agricoltori abbiatensi, secondo me, usufruiscono di un paesaggio bellissimo perché le vallate di Abbiate Grasso sono rimaste intatte e quindi qui non si fa neanche un'agricoltura propriamente intensiva, si coltivano prati, si coltivano cereali, il mais non è un grosso problema come invece esiste in altri territori e quindi gli agricoltori di Abbiate Grasso secondo me hanno veramente valorizzato il loro territorio e quindi ci piacerebbe proprio coinvolgerli in un discorso che metta insieme le aziende, ne faccia una rete e che quindi in un certo senso ne difenda anche il reddito, perché purtroppo andando in giro io da una parte ho trovato interesse, no? Un'iniziativa di questo genere, dall'altra un po' le solite lamentele, no? Nessuno pensa all'agricoltura, eccetera. Questa serata qui è proprio, secondo me, pensata per raccontare un po', no? Le esperienze di agricoltori e vedere di mettersi insieme e collaborare.